Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 16 giugno del 1966. È una calda sera d'estate a Paterson, nel New Jersey. Rubin Carter sta guardando un concerto di James Brown alla TV mentre gioca con la figlia Teodora. Ad ogni interruzione pubblicitaria entra in camera e si mette davanti al guardaroba. Deve uscire e si deve preparare. Anche stasera andrà a bere un drink. A Rubin piace la vodka, anche se cerca di non ordinarne mai più di un paio in ogni club. Non gli piace dare l'impressione di essere un bevitore, non vuole dare un motivo in più ai bianchi per prendersela con lui. È nero e fa il pugile. Questo è già un buon motivo per avercela con lui in quegli anni. Come gli diceva sempre suo padre, Lloyd Carter Sr., cerca di mostrare il tuo successo con un'immagine ben curata e il mondo dei bianchi ti rispetterà. Così ha fatto Rubin. Abiti doppio petto confezionati su misura in una sartoria a Filadelfia. Ai piedi, solo scarpe italiane. All'epoca Rubin ha 29 anni ed è un pugile pluripremiato, uno dei protagonisti dell'era d'oro della boxe di quegli anni. Un promoter d'allora, un tale Jimmy Colotto, dopo averlo visto combattere, paragona quella incredibile e inarrestabile forza della natura sul ring a quella di un uragano. E così da allora lo chiamano Hurricane. È stato Jimmy Colotto, un promoter di New York, a darmi quel soprannome. Non mi piace molto perché ce n'è un altro prima di me. Un tale Hurricane Jackson, col quale non ho molto in comune. Ma Hurricane fa capire molto bene la forza distruttiva che c'è dentro di me. Quella forza che deriva dalla discriminazione razziale che c'è in questo paese per noi afroamericani. Trovo comunque che Hurricane sia perfetto. Oltre al soprannome, che ne descrive il temperamento, Rubin ha anche un look molto particolare per l'epoca, che contribuisce a farlo apparire un temibile avversario. Negli anni 60 molti neri si fanno stirare i capelli per emulare i bianchi. Carter invece non ha nessuna intenzione di uniformarsi. Anzi, decide di rasarsi la testa e di esibire con fierezza la sua pelle lucida e scura anche sul capo, rifacendosi all'immagine di un altro pugile nero del passato, Jack Johnson. Uno dei grandi eroi della mia vita è stato Jack Johnson. Uno dei migliori pugili di sempre per me. È stata anche una delle migliori persone di sempre. Perché Jack Johnson non ha mai dimenticato la sua dignità, non ha mai fatto quello che gli altri afroamericani hanno fatto, di vivere isolati, segregati, discriminati. Lui si muoveva con tutta la sua abilità e la sua libertà di essere umano. Ed io ho cercato di emularlo. Così mi sono rasato i capelli all'età di 17 anni. Rubin, quel giovedì 16 giugno del 1966, deve incontrare il suo manager, Nathan Shermond, al club L'Appetit, per parlare dell'incontro che deve tenere in Argentina. Nathan dice che ha trovato a Buenos Aires uno sparring partner che fa al caso loro. Combattevo per il Madison Square Garden e mi dissero che avevano trovato sul posto uno sparring partner per il mio incontro in Sud America. Di solito viaggiavo con il mio sparring partner, ma quella volta mi dissero che preferivano così. Finito quell'incontro di lavoro, Rubin vuole divertirsi, vuole godersi il suo successo e bere con gli amici. Si trasferisce così con la sua Dodge Polara al Night Spot, il club di sempre dove bianchi e neri possono bere insieme. È giovedì e le donne bevono gratis. Il club è affollato. Rubin si avvicina al banco per ordinare la solita vodka. C'è qualcosa di strano nell'aria in quell'estate del 1966. Per capire meglio quale sia il clima che circonda Rubin Carter quel 16 giugno, facciamo un passo indietro, a partire dalla città. Come si vive a Paterson? Paterson, agli inizi del Novecento, è la città con maggiore crescita in minor tempo in tutta la East Coast. La sua industria della seta attira lavoratori da tutto il mondo. Ci sono tedeschi, irlandesi, italiani, ebrei, polacchi. Oltre all'industria, fioriscono i locali, le taverne, i bar. Ce ne sono più di 400, dove gli emigrati possono sentirsi un po' a casa. Uno dei bar nella città vecchia, l'Emily Meyer Saloon, negli anni 50, espone un cartello esplicativo. Qui si parla francese, tedesco, olandese. Negli anni 30 la popolazione nera di Paterson è dell'1%. Negli anni 60 arriva ad essere del 20%. Tra il 50 e il 64, 18.000 tra neri e ispanici si trasferiscono a Paterson, mentre 13.000 bianchi se ne vanno. Questo è il clima. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, no. My baby just cares for me. È un ragazzo nero che impara a difendersi presto. Combattere è una necessità per chi nasce in quegli anni a Peterson. È una questione di sopravvivenza. Nel 1954, dopo qualche anno passato in riformatorio, si arruola nell'esercito americano e dopo un periodo di addestramento a Fort Jackson in Carolina del Sud, viene spedito in Germania. È durante quel periodo che nasce il suo interesse per la boxe. Per i primi 17 anni della mia vita ho sofferto perché non riuscivo a parlare come avrei voluto. Avevo milioni di parole nella mia testa e quando cercavo di esprimerle non uscivano nel modo giusto. Così la gente ha cominciato a ridere di me ed io a difendermi da loro, colpendoli. E quando cominci a colpire qualcuno perché ride di te, è meglio che impari bene a combattere, sennò sei fregato. Così combattere è diventato naturale per me. Nell'esercito in Europa ho incontrato un uomo, anche lui era un soldato. Si chiamava Ali Hassan. Mi dice che la mia incapacità di esprimermi e la mia aggressività erano strettamente collegate. Mi chiede se voglio andare a scuola e naturalmente rispondo di sì. Piano piano le parole cominciano a fluire nella mia bocca come le cascate del Niagara. Ali Hassan mi introduce poi nel giro della box dell'esercito. Lì mi sono qualificato per le Olimpiadi del 56. Sono le parole che si strozzano in bocca a fare di Rubin un pugile. Le parole sono anche il rifugio dell'altro protagonista di oggi, che con Harry Caine condivide lo stesso bisogno di esprimere ciò che ha dentro. In questo caso però è dalla facilità nel tradurre in parole le emozioni che nasce la sua arte. Arte che si esprime in una lotta differente da quella di Rubin Carter, ma che poi li porterà ad incontrarsi. Si tratta di Robert Allen Zimmerman. Robert Allen Zimmerman, nato nel 1941 a Duluth, in Minnesota, da una famiglia ebrea borghese di origini russe. Negli anni 50 scrive le sue prime poesie in occasione della festa della mamma e del papà. Bobby, o Zimbo, come lo chiamavano i compagni di scuola, è anche appassionato di motociclette. Marlon Brando dei Selvaggio, James Dean di Gioventù Bruciata, sono i suoi idoli, sia per lo stile dell'abbigliamento, sia per l'amore delle due ruote. Nel 1956 si compra la prima Harley Davidson usata. Non si può essere veramente duri senza una moto e una giacca di pelle. La famiglia lo incita a salire sui palchi nelle feste di piazza a intonare canzoni. A volte improvvisa pure qualche storia e la mette in musica. Gli viene facile mettere insieme frasi che abbiano non solo un significato, ma anche una certa musicalità. E poi ha una voce molto particolare, il che non guasta. A Bobby piace la musica, vorrebbe fare della radio, ma tutto ciò che arriva a Duluth non ha nulla a che vedere con quello che sente dentro, che vorrebbe esprimere. Avrebbe voglia di rock and roll, che da quelle parti non si sente spesso. Anche se nel 1959 arriva Buddy Holly. È una fredda sera d'inverno. Bobby indossa la sua maglietta nera, la sua giacca scura sciancrata, i pantaloni che gli fasciano la gamba e che lasciano scoperta la caviglia. Ai piedi dei fantastici stivaletti blu. E va al concerto. Bob e gli amici si identificano con Buddy, un ragazzo di provincia come loro, fragile e giovane, con la voglia di dire qualcosa al mondo. Solo tre giorni dopo, il 3 febbraio del 1959, un aeroplano noleggiato a Mason City, Iowa, decolla per Fargo, nel North Dakota, mentre comincia a nevicare. Il pilota non riesce a far fronte al cattivo tempo e urta con l'ala sinistra il terreno. Nell'impatto muoiono il pilota e tre musicisti. Buddy Holly, 22 anni, Richie Valens, 17 anni di origini messicane che aveva portato a successo la bamba, e J.P. Richardson, 24 anni, detto Big Bopper. Dopo quella notizia, Bobby cambia. Per lui, cantare e scrivere canzoni è una necessità. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Decide quindi di prendere lezioni di musica folk e comincia a suonare in locali facendosi chiamare con un nome d'arte. Zimmerman è un po' difficile da pronunciare. Prova con Bob Dylan, prendendo a prestito il nome da un vecchio zio, anche se non è convinto. La D però gli piace. Dopo Bob suona bene. E se fosse Dylan? Eccolo il nome. Bob Dylan. Sono anni di sperimentazioni. Suona nei caffè, sente tutta la musica possibile e cerca di nutrirsi dei grandi del passato per trovare la sua strada. Finché nel 1960 ha una folgorazione. Legge la biografia di Woody Guthrie e da quel momento il suo interesse per la musica folk diventa maniacale. Lo vuole conoscere. Guthrie rappresenta la cultura americana di quegli anni, quella che è capace di identificarsi con gli oppressi. Guthrie è un uomo che canta la giustizia e la libertà e nelle sue ballate, pur parlando di una sola vicenda, c'è l'umanità intera. Dylan è pronto. Le parole fluiscono dentro di lui e si trasferiscono sugli spartiti. Parole importanti, storie di gente comune che rispecchia il periodo storico, storie che sembrano essere manifesto di un'epoca. Ma la sua città gli va stretta. Così si trasferisce a New York. In una New York innevata trova un appartamento nel Greenwich Village, un periodo così pieno di nuovi incontri che serve sempre più a definire la sua nuova strada. Il 2 agosto del 62 è pronto per essere definitivamente la persona che sente di essere. Così si reca in municipio e cambia legalmente nome. Finisce Robert Allen Zimmerman, comincia Bob Dylan. Nel Village c'è l'ambiente ideale per un giovane artista come lui. È passato un anno dal suo arrivo. Bob è in uno dei tanti bar dove di solito va a bersi un caffè. È una giornata ventosa, quel 15 aprile del 62. Sta guardando dalla vetrina la gente che passa per strada. Sente che deve scrivere qualcosa. Così chiede un foglio alla barista, una penna ce l'ha sempre con sé, e butta giù delle frasi. La risposta, amico mio, soffia nel vento. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Il momento è perfetto per accogliere una canzone del genere. Infatti, viene adottata come manifesto dai movimenti per i diritti civili. Sono gli anni della musica impegnata. Lui è, anche se non lo vuole ammettere, un cantante impegnato. Quando gli chiedono perché canti, lui dice perché ne ho voglia. E alla domanda hai qualcosa di speciale da raccontare nelle tue canzoni, risponde sempre di no. A un certo punto la gente ha avuto una visione distorta di me. E di solito quella gente non faceva parte del mondo della musica. Ero il portavoce di una generazione, la coscienza di una cosa piuttosto che di un'altra. Non mi riconoscevo, non ce la facevo proprio. I have a dream that one day. Quando mi annunciarono, subito dopo il discorso di King, sentii che era un momento profetico. I would like now to introduce a young singer from New York, Bob Dylan. Ho guardato la folla e mi sono detto: tutta questa gente non la vedrai mai più. Comincia ad essere insofferente nei confronti di chi lo vede come protest singer. Lui vuole solo parlare alla gente, non prendere delle posizioni. Però la storia lo chiama e lui non si tira indietro. Rubin non crede alla resistenza pacifica di Martin Luther King. Ha delle idee rivoluzionarie, Rubin, soprattutto per quanto riguarda la convivenza con i bianchi. Qualcuno ha un sogno, qualcun altro sostiene che nessuno ti dà uguaglianza e giustizia se non vai a prendertela. Nel 64, Rubin prende posizioni radicali nei confronti dei disordini ad Harlem. La rivolta scoppia perché un poliziotto fuori servizio uccide un ragazzo nero di 15 anni. La folla attacca la polizia con pietre, bastoni, bombe Molotov, anche nel quartiere di Brooklyn. Il bilancio è di 6 morti e quasi 200 feriti. Da allora vuole stare alla larga dalle manifestazioni. Sono cresciuto con Martin Luther King. Lui è 9-10 anni più vecchio di me, ma sono cresciuto anche con Malcolm X. Era uno dei miei migliori amici. Anche lui era poco più vecchio di me. Nel 1965, mi sembra, c'era una marcia nel sud dell'Alabama e il dottor Martin Luther King mi chiese se volevo unirmi. Ed io dissi: tu mi proteggerai laggiù in Alabama? E lui mi disse: lo sai che noi siamo per la non violenza. Ed io dissi: anch'io sono per la non violenza, almeno finché la gente rimane non violenta con me. Così non sono andato. La marcia è stata interrotta da disordini vari. Ci sono stati pestaggi, incendi. La non violenza non è stata rispettata. La polizia conosce bene Rubin Carter. Ogni venerdì sera è in diretta TV al Madison Square Garden. È un pugile quotato. Il primo incontro comincia quasi per caso mentre è nell'esercito. nel 1961 decide di diventare pugile professionista. Batte nomi come Gomi O'Bannon, Florentino Fernandez, George Bentos. Nel 63 il Ring Magazine lo inserisce nella top 10 dei pugili. Ha tutte le carte in regola per conquistare il titolo di campione del mondo dei pesi medi. Perfino il grande Emil Griffith è distrutto da Carter il 20 dicembre del 1963 in meno di due riprese. E dopo quell'incontro, il povero Griffith viene sbattuto in stato di semi-incoscienza fuori dal ring. Non c'è nessuno nell'ambiente pugilistico che non veda in Harry Kane il futuro della box. Either man has been down. 15th and last round. The champion, Giardello, the champion, and the challenger, Carter, they smile, touch club. 3 minutes to go in the title fight. Dopo l'incontro con Griffith, Rubin ottiene la possibilità di sfidare Joey Girardello, campione in carica. L'incontro con Joey avviene il 14 dicembre del 1964 a Filadelfia. 15 round, dove Harry Kane combatte bene, ma viene dichiarato vincitore Girardello ai punti, con grande disappunto della folla. 14 su 18 giornalisti a bordo ring ritengono vincitore Carter. Rubin incassa e non contesterà mai il verdetto dei giudici. Da allora comincia però il declino di Harry Kane. Quell'estate che cambia la vita di Rubin Carter, James Meredith, il primo studente afroamericano dell'Università del Mississippi, viene colpito da una pallottola mentre cerca di manifestare e Martin Luther King è ferito da un sasso scagliatogli contro da un bianco durante una marcia per i diritti civili a Chicago. Sono anni caldi. E però l'estate è anche del Freedom of Information Act, sulla libertà di informazione di Lyndon Johnson, e dell'abolizione del Vaticano dell'indice dei libri proibiti. Le parole cominciano ad avere il peso che meritano. Le parole che hanno portato i nostri due protagonisti su strade differenti, ma che li vedranno poi uniti. Rubin, quel 16 giugno, è al Night Spot. È uscito per andare a bere una vodka con gli amici. C'è un sacco di gente quella sera al club, anche se è cominciata bene, non sembra promettere nulla di buono. Verso mezzanotte arriva la notizia che hanno sparato a Roy Holloway, il proprietario del Waltz Inn. È stato ucciso da Frank Conforti. La cosa sconvolge tutti nel bar, perché Roy Holloway è un fratello nero e Conforti un bianco. Al Night Spot si discute dell'accaduto. C'è anche Rubin, che però non vuole farsi rovinare la serata da quella notizia. Così prosegue a ballare e ad offrire da bere alle signore. Eppure quella notizia sa di premonizione del destino per Harry Kane. Quella stessa estate, Bob Dylan sta percorrendo la highway nei dintorni di Woodstock a bordo della sua motocicletta. Una passione che non l'ha mai abbandonato. È stanco del successo che è arrivato così inaspettato. È provato dalle conferenze stampa, dai giornalisti, dai fan. È distratto mentre pensa a tutto quello che gli sta capitando intorno per via di quella sua facilità nel cantare della gente alla gente. Ad un tratto perde il controllo della sua Harley Davidson, sbanda e cade. Niente di grave, ma è certamente l'occasione per prendersi una pausa. Rimane per un anno fuori dal giro, non rilascia interviste, non fa concerti, non si fa vedere. Ha bisogno di staccare, di rigenerarsi. Troppe cose sono successe e troppo in fretta. Il suo pubblico può aspettare. Quell'estate invece il pubblico aspetterà invano di rivedere i Beatles dal vivo. Il 29 agosto del 1966 i Fab Four tengono il loro ultimo concerto a San Francisco, Candlestick Park. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo nell'estate del 1966, esattamente nella notte tra il 16 e il 17 giugno. Rubin Harry Kane Carter, pugile aspirante al titolo mondiale dei pesi medi, è in un club a bere una vodka con gli amici. Siamo a Paterson, cittadina del New Jersey, dove bianchi e neri convivono a fatica. Nel locale dove Harry Kane si sta divertendo con gli amici, il Night Spot, arriva la notizia che un bianco ha ammazzato un nero. Uno dei tanti esempi di violenza legata alla discriminazione razziale, solo il primo dei delitti di quella notte maledetta. Da quella sera la vita di Rubin cambia radicalmente. Questa prima svolta gli permetterà di incontrare dopo molti anni Bob Dylan, che imprimerà con la forza della sua arte una nuova sterzata al suo destino. Ormai sono le 2 del mattino. Hurricane cerca qualcuno che possa guidare la sua auto sino a casa. Ha bevuto un po' e non vuole incappare nella polizia. Si offre John Artis, un ragazzo di soli 19 anni che conosce Rubin, come tutti, anche se non è un appassionato di box. Gli piacciono le belle ragazze e le macchine veloci. Quella sera John ha l'occasione di portare a casa Hurricane in persona guidando la sua macchina. Anche se non è l'Eldorado nera sulla quale è scritto il suo nome, Rubin Hurricane Carter, in lettere d'argento. Si fa dare le chiavi e incredulo si mette al posto di guida della Dodge Polara bianca, la macchina che Hurricane usa solitamente per lavoro. Quella sera l'Eldorado è rimasta in garage. Alle 2:40 del mattino, delle luci lampeggianti e il rumore di una sirena interrompono la guida di John Artis. E la polizia? John accosta, il sergente che li ferma è Theodore Kupter. Anche lui conosce Carter, tutti a Patterson lo conoscono. Gli chiede quando è il suo prossimo incontro. Tranquillizza sia il guidatore che il suo illustre passeggero che va tutto bene, che è solo un controllo, mentre il suo secondo annota il numero di patente di Artis. Improvvisamente la Polara è circondata da altre macchine della polizia. Viene intimato loro di scendere dall'auto. Hurricane e John Artis scendono. In pochi istanti si ritrovano entrambi col viso schiacciato sul tetto dell'auto mentre gli agenti li ammanettano. Stanno cercando due uomini neri su una macchina bianca. Ma perché? Al Lafayette Bar and Grill, all'angolo tra la 18esima e Broadway, ci sono quattro bianchi a terra. Tre sono morti e uno è ferito grave. Patricia Valentine, che abita al secondo piano del palazzo dove si trova il bar, dice di aver visto due uomini neri allontanarsi su un'auto bianca. Questo avvalora la tesi della polizia, ovvero che ci sia un collegamento con l'omicidio avvenuto solo 6 ore e mezzo prima, dove un bianco ha ammazzato un nero. Occhio per occhio. Sulla scena del delitto, inoltre, proprio nello stesso istante, si trovano Alfred Bello e Arthur Dexter Bradley, due noti criminali del posto, che dicono anche loro di aver visto due uomini di colore nei pressi del bar. 2 minuti dopo ci mettono su una macchina della polizia e ci portano al St. Joseph Hospital. Ci portano in sala operatoria, dove si trovava l'unico superstite della carneficina, William Merins, che era su una barella con un occhio maciullato. E gli chiedono se siamo noi quelli che hanno fatto fuoco alla Fayette. Io avevo una giacca chiara quella sera, qualcosa di assolutamente riconoscibile. La polizia insiste e chiede di nuovo al poveretto sul letto: sei sicuro che non sono loro, quelli che hanno sparato? E lui ha annuito con la testa: sono sicuro, non sono loro. La polizia incastra comunque Hurricane e John Artis comprando la testimonianza di Bello e Bradley. La corte del New Jersey li condanna a 3 ergastoli per triplice omicidio. Giuria bianca, giudice bianco. Nessun movente, nessuna prova. Eppure Hurricane è in prigione per un crimine che non ha commesso. Non avevo nessuna intenzione di obbedire alle leggi della prigione. Ero innocente. Non avrei mangiato il loro cibo. Non avrei indossato gli abiti a strisce da colpevole. Avevo solo me stesso per riprendermi la libertà. Così ho usato il mio tempo per studiare legge e potermi difendere. Ho impiegato il mio tempo per scrivere la mia autobiografia, per raccontare al mondo la mia storia. 10 anni di prigione e la biografia è pronta. Quelle parole che si strozzavano in gola e lo hanno portato a combattere, adesso sono l'unica via di salvezza per Rubin. Deve spiegare al mondo che lui non è colpevole, deve trovare il modo di tornare in libertà. Scrive così la sua autobiografia, intitolata Il 16° round, e la spedisce a tutti quelli che, secondo lui, possono avere una certa influenza sull'opinione pubblica. Deve trovare il modo di farsi ascoltare, anche se è rinchiuso in galera. Da lì, fra l'altro, sente tutto quello che succede fuori e si rinforza. Oltre il muro della mia prigione vedevo Mandela che alzava i suoi occhi. Vedevo George Jackson che alzava gli occhi dalla sua prigione prima di essere ucciso da un secondino. Siamo ormai a metà degli anni 70. Dylan ha abbandonato la canzone impegnata e gli amici del tempo. Il folk e le parole che segnano una generazione adesso hanno un gusto un po' più intimo, meno epocale. Anche i suoi abiti sono cambiati, sono più da rock star. Nel 1974, per il suo compleanno, è in Francia, ad una festa gitana che gli fornirà lo spunto per One More Cup of Coffee. Al ritorno da Parigi, in attesa di imbarcarsi sul suo volo per New York, prende dalla borsa quel libro che un pugile gli ha spedito qualche giorno prima. Sembra interessante. Una di quelle storie di cui scriveva anche lui una volta. La storia degli oppressi, dove si parla di ingiustizie, di gente meno fortunata. Gli piace quello stile, gli piace come sono descritti i fatti. Sembra la sceneggiatura di un film. Al suo atterraggio il libro è finito. Quella vicenda fa parte di lui, ma sente che deve poterla capire meglio. Così decide di far visita all'autore, Rubin Hurricane Carter. Quando seppi che Dylan mi avrebbe fatto visita, mi studiai tutte le sue canzoni. Tutti mi chiedevano sempre: Hurricane, sei colpevole o innocente? Ma lui non mi chiese nulla, non gli interessava. Mi guardava e voleva sapere chi fossi, se ero la persona che lui credeva che fossi. Ci siamo capiti subito. Avevamo una storia comune. La prima volta che è venuto da me è stato a parlarmi 8, 9, 10 ore. Io non sapevo che volesse fare una canzone su di me. Da quell'incontro comincia a delinearsi un nuovo futuro per Hurricane. Una settimana dopo torna da me con una demo. L'abbiamo ascoltata. Senti cosa ha fatto questo genio. È riuscito a condensare 6 settimane di processo e tutto quello che è successo in questi anni in una canzone. Ecco la storia di Hurricane, l'uomo che le autorità accusarono di un crimine che non aveva mai fatto. L'hanno messo in una prigione, ma un giorno potrà diventare il campione del mondo. Così canta Bob Dylan. La prima versione di Hurricane, incisa nel 75, è tuttora inedita. Il testo viene riscritto e incluso nell'album Desire, leggermente modificato, per evitare possibili denunce di personaggi coinvolti nella vicenda. Eppure ci sono tutti. C'è Patti Velatin, ci sono Bello e Bradley con la loro falsa testimonianza. C'è la descrizione meticolosa dell'accaduto. Dylan non prende posizioni, come al solito, descrive solo la vicenda e ripete continuamente: sarebbe potuto diventare il campione del mondo. Dylan dichiara alla rivista People nel 75: non sono un attivista, proprio mentre è nel pieno dell'attività per Rubin Carter. Io sono per la gente che soffre. È il 1975 e Rubin Carter ha incontrato Bob Dylan. La vicenda che ha cambiato la vita del pugile nel 1966 adesso lo mette sulla strada del cantante, che, convinto della sua innocenza, scrive una canzone, Hurricane. Il tour che seguirà farà riaprire il caso per far avere un nuovo processo a Carter. Ma non sarà l'ultima volta per Hurricane, non ancora. Mentre quel 1975 è l'ultima volta per i Led Zeppelin all'Earl's Court di Londra. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stars. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard. Oggi Destini Incrociati è in America, a metà degli anni 60, e parla di Rubin Carter, un pugile nero in un'America che ancora si vergogna dei differenti colori della sua pelle. Un nero non può essere un vincente, e Rubin lo è nel posto sbagliato al momento sbagliato. Viene incarcerato ingiustamente nel 1967, accusato di un triplice omicidio. Dal carcere scrive la sua autobiografia, che arriva nelle mani di Bob Dylan, rappresentante di un'altra America, quella della controcultura, quella che si occupa della gente che soffre. E il destino di Hurricane comincia a prendere una nuova strada, anche grazie alla canzone a lui dedicata da Bob Dylan. Grazie all'intervento di Dylan, il caso Carter viene sbattuto in faccia all'America. È il 1975. Adesso non c'è più il Vietnam. C'è Rubin Hurricane Carter per cui marciare, per cui protestare. La stampa si occupa di questo nero che da anni sta scontando una pena in prigione per un delitto che non ha commesso. Condannato sulla base di pregiudizi razziali da una giuria di bianchi. Dylan decide di iniziare una campagna per la riapertura del processo. Carter è il fulcro di una tournée, la Rolling Thunder Revenue, che viene organizzata nell'autunno e nell'inverno del 1975 e che si conclude con i concerti al Madison Square Garden l'8 dicembre e all'Astrodome di Houston il 26 gennaio 1976. Proprio nel 1976 inizia il secondo processo. La Rolling Thunder Revenue fa credere a tutti che siano tornati gli anni 60. Dylan, John Baez, Roger McGinn, Allen Ginsberg sullo stesso palco a cantare This Land Is Your Land. Troppo bello per essere vero. Il tour comincia nella prigione dove si trova Hurricane. Dylan, from his own volition. Dylan voleva fare un concerto nella prigione dov'ero, una prigione per donne. L'unico che era stato in una prigione a cantare le sue canzoni era stato a San Quintino, Johnny Cash. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Tutti sanno che Bob Dylan crede nell'innocenza di Hurricane e vogliono sentir cantare quella meravigliosa canzone. Le persone che erano fuori volevano entrare per vedere Bob Dylan. Incredibile. Mentre noi avremmo voluto uscire dalla prigione, loro volevano entrare. C'erano molti giornalisti e fotografi a seguire l'evento. Finito il concerto, un fotografo del Time vuole fare una fotografia di Dylan e Hurricane insieme. Non c'erano sbarre. Voleva fare una foto con me e Dylan e cominciò ad urlare: dove sono le sbarre? Voglio le sbarre, fatemi parlare col direttore. Poi vide un cancello alzato e chiese: questo scende? Sì, gli dissero. Così fece scendere quelle sbarre e fece la foto. Io da una parte delle sbarre, Dylan dall'altra. L'opinione pubblica comincia a capirne un po' di più. Si mobilitano persone, scendono in piazza, si parla e si canta di Hurricane, bianchi e neri, indifferentemente. C'è anche Mohammed Ali al fianco di Dylan, John Baez e gli altri. Nel marzo del 1976 viene concesso un nuovo processo ad Hurricane, ma anche questa volta il tribunale del New Jersey riconferma la condanna. I testimoni continuano a mentire. Hurricane non si dà per vinto. Continua a credere che ce la farà. Un gruppo di attivisti canadesi per la difesa dei diritti civili sta già lavorando per una nuova riapertura del processo. Il processo viene riaperto nel 1985. Bello e Bradley ritrattano le loro testimonianze e nel 1988 la Corte federale decide che i processi precedenti sono stati condotti sulla base di pregiudizi razziali. Perciò l'11 gennaio del 1988 la Corte suprema nega allo Stato del New Jersey il ricorso in appello e conferma la decisione del giudice Sarokin, un giudice bianco, illuminato, di liberare Hurricane e John Artis. Le parole hanno vinto, le parole che dicono la verità, che parlano della libertà. Le parole hanno fatto luce fra le tenebre dell'ingiustizia e Rubin Carter è libero. Appena uscito di carcere, diventa direttore esecutivo dell'Associazione per la difesa dei condannati per errore. Il 14 ottobre 2005 riceve il dottorato honoris causa in legge dall'Università di New York, di Toronto e anche dalla Griffith University in Australia. Nel 1993 il World Boxing Council gli consegna la cintura del campione del mondo per aver combattuto e aver vinto il match più duro della storia, quello per la libertà e la giustizia. È riuscito a sopravvivere a tanti anni di ingiustizie, Carter, perché non ha mai perso la speranza, perché ha osato sognare che sarebbe accaduto. Osate sognare, non il sogno di un altro, ma il vostro sogno. Il mondo è un posto meraviglioso che è difficile da spiegare. Se avete un sogno, potete fare in modo di realizzarlo. Osate sognare sempre. Nel 1999, la vicenda ispira anche un film con Denzel Washington, Hurricane, il grido dell'innocenza, per cui Denzel Washington è stato candidato all'Oscar. Eppure, fu la canzone di Dylan, la più rappresentativa, quella che fece riaprire il caso e diede ad un innocente la sua possibilità di riscatto. Hurricane fu uno dei singoli più venduti per Dylan in quegli anni, però dopo la Rolling Thunder Avenue decise di non eseguirlo mai più. Altre canzoni sono state scritte su Rubin Carter, come quella dei The Roots. Talk about paying the ultimate price. Hurricane been incarcerated all of his life. Started out at like 12, right. Trapped in the belly of hell. Ruined to a man inside of a cell. Yo, anger just swell up. At an early age that developed, right. Hot headed, now it ain't shit y'all can tell him. They said he's on the road to become a felon, but instead he swung blows that'll split your melon. He did his thing and was the king in the ring. Undisputed. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.